Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. È una strana sensazione perché il mio ridere ricorda un po' quello che si faceva a scuola, dove lo sguardo severo dell'insegnante rendeva la risata ancora più esplosiva e difficile da controllare. Poi, in questa risata, mi trovo a scaricare tutta la tensione e la paura della tragedia che sto vivendo. E così rido, e rido ancora. Mi chiamo Moreno Babboni, ho 57 anni, vivo a Rimini. Ho lavorato per quasi 40 anni come capotreno, ora sono da poco tempo in pensione. Sono sposato, ho 3 figli. Sono le 16:08 di un mercoledì che non è qualunque, è il 9 di maggio del 2012. Non è un mercoledì qualunque per due motivi sostanziali. Il primo perché la puntata, il racconto, la storia nati dal racconto di Moreno Babboni è magnifico. È magnifica la sua storia ed è, devo dire, secondo me è una bella puntata perché vi racconteremo la storia di una ricercatrice americana che ha avuto quello che è successo a Moreno e l'ha raccontato in una maniera straordinaria. Quello però nel resto della puntata, ma è una gran giornata perché è ufficialmente online e scaricabile gratuitamente l'ebook. L'ebook sta per il libro elettronico di questo programma che si chiama Voi siete qui. Abbiamo scelto 100 storie. Chiediamo scusa a quelli che non sono entrati nel novero delle storie semplicemente perché abbiamo cominciato a lavorarci un bel po' di tempo fa, perché abbiamo dovuto fare una scelta per argomenti. È perché 100 era il numero giusto, altrimenti avremmo dovuto fare tipo 130. 36, non potevi fare 130, non potevi fare. Domani siamo al Salone del Libro e a noi che non sfugge veramente niente, oggi lanciamo un libro elettronico. Fossimo stati al Salone Nautico, lanciavamo un canotto probabilmente o una scialuppa di salvataggio. Non è invece così. Allora, facciamo così. Visto che io non l'ho ancora scaricato e visto che se lo scarico io è ufficialmente a prova di imbecille, se avete il vostro computerino aperto, andate sul profilo, andate su Facebook, l'abbiamo caricato lì. Il profilo è Matteo Caccia, io sono qui, che è il profilo del programma. Se avete Twitter, pure su Twitter l'abbiamo caricato. Sono già in ritardo, vero? Cioè, quanto c'ho? Tipo un'ora per spiegarlo? Ho un minuto per spiegarlo. Andate sul profilo Facebook, abbiamo caricato il link, cliccate sul link e andate su questo sito che si chiama ultimabooks.it. L'editore invece, che ringraziamo, è Narcissus Self Publishing, dove anche voi potete pubblicare il vostro ebook se vi va. Ed eccoci qua, siete sulla pagina di Voi siete qui, c'è la bella copertina fatta da Francesco, di Francesco Pini, che è il grafico della radio, quella che avete visto, avete valutato, ci fa schifo, ci piace moltissimo. Ok, siete qui, andate a sinistra, c'è scritto vai alla cassa, acquista, perdonatemi, ma è gratuito. Cliccate su acquista, ve lo mette sul vostro carrello, andate sul carrello e cliccate di nuovo su acquista. A questo punto, ripeto, è tutto gratuito, vi dovete registrare, però d'altronde diciamo sono l'unica merce di scambio che ultimamente si ha con i siti, vi registrate e vi scaricate l'ebook. L'ebook, ripeto, vi serve un reader per leggere, cioè se avete un tipo, come si chiama, se avete Kindle o quei lettori lì, ve lo scaricate e ve lo leggete automaticamente. Se avete un computer invece dovreste avere Adobe, che è una roba per leggere, se non ce l'avete ve la scaricate, è un attimo, ok? E vi ottenete le storie, 100 storie di Voi siete qui, sono divisi per temi, ve ne dico alcuni di temi e poi vi saluto. Alcuni temi sono amore, destino, lavoro, amici, viaggi, guerra, 2 in 1. Non so cosa volessi. L'ho scelto io, lo so, l'ho scelto io, ma non so cosa volessi dire. Sono 2 storie in 1, credo di sì. Vi ripeto, è online il ebook di questo programma. Lo presentiamo ufficialmente domani al Salone del Libro, ma lo potete già scaricare sin da ora. Sono le 16:12. Questa puntata nasce, però cammina coi suoi piedi grazie alla storia di Moreno, che racconta di una grande disavventura, che ci racconta però qualcosa su di noi e sul nostro cervello. Anni passati in buona salute. Lavoro come capotreno, non ho problemi economici e amo la vita. Mi sono risposato una seconda volta pochi anni prima con una giovane moglie che amo e che mi ha dato 2 splendidi bambini. Mi sento felice ed appagato. Un giorno come altri, dopo aver trascorso la solita giornata di lavoro, dopo cena sento improvvisamente una terribile fitta alla testa. È una sensazione e un dolore mai provati prima. È come se un coltello si infilasse dall'alto verso il basso e attraversasse totalmente il mio cranio. passasse per il cervello e rimanesse in quella posizione provocandomi uno stato di confusione e di stupore. Capisco che quello che mi sta succedendo è un evento terribilmente grave, anche perché, nel tentativo di muovermi, mi accorgo di non disporre più del controllo del braccio e della gamba destra. La patologia si chiama aneurisma cerebrale ed è un rigonfiamento dell'arteria, di un'arteria cerebrale che poi si lacera col tempo, provocando appunto un'emorragia cerebrale. In genere è innata, alcuni fattori possono generare questa patologia, in genere la ipertensione, così, ma nel mio caso credo che sia proprio un fattore innato, come spesso accade. Sono confuso, dolorante e terrorizzato. Il dolore è davvero insopportabile e vengo portato da mia moglie al pronto soccorso dell'ospedale vicino. Un attacco rivela un'emorragia cerebrale che impone l'immediato ricovero presso l'ospedale di un'altra città, dove c'è un reparto efficiente di neurochirurgia in grado di affrontare questo tipo di emergenza. Devo confessare che una piccola parte di me si sente in qualche modo incuriosita da tutto quello che sta succedendo, come se la psiche stesse tentando una sorta di distacco da quegli avvenimenti così traumatici. Finalmente arrivo all'ospedale e vengo visitato e ricoverato in una grande stanza del reparto di neurochirurgia, dove ci sono una decina di persone, tutte con la testa rasata, che sembrano dormire. Io sono davvero molto impressionato dai miei compagni di stanza. Sono consapevole senza ombra di dubbio che non sarà possibile nessuna relazione con gli altri pazienti. E mi convinco che la speranza di scambiare qualche parola per alleggerire la tensione è destinata a fallire. Alcune infermiere entrano nella stanza e una mi chiede se ho protesi dentali, collane, anelli. Io ho solamente la fede, me la tolgo e lei la mette nel cassetto del comodino. Rimango praticamente nudo, privo di ogni traccia della mia vita precedente, di quando ero nella mia tranquilla esistenza quotidiana. Sono disperato, comincio a pregare. Ho però con me una piccola radiolina che sta per essere infilata anche lei dentro al contenitore. Allora io le chiedo, senza troppa attenzione, di poterla tenere. La donna mi concede questa possibilità. Allora mi metto le cuffie nelle orecchie e cerco qualcosa da ascoltare per potermi distrarre dal dolore e dalla situazione. Intanto la solita infermiera mi somministra un antidolorifico e inizia a fare effetto. Continuo a guardare le infermiere dell'ospedale che, abituate ad accudire pazienti senza più stimoli, non si preoccupano dei rumori che la loro attività produce. E infatti buttano le bottiglie di vetro usate, quelle delle Flebo, dentro un grande scatolone, producendo un suono fastidiosissimo. Intanto tengo la radio sotto le lenzuola e, cercando, trovo la voce di Fiorello. Non sono in realtà molto interessato, anche perché nulla può davvero attrarre la mia attenzione. La trasmissione in verità comincia ad interessarmi sempre di più. Trovo esilaranti le sue imitazioni, quelle di Cassano, della Bellucci. Poi però comincia a imitare l'inconfondibile Mike Buongiorno. E dopo qualche attimo non riesco a resistere e comincio a ridere. Prima in modo appena accennato, poi invece rido davvero di una sorta di risata liberatoria, dove è contenuta tutta la tensione, la paura e tutto il dramma che sto vivendo. È una strana sensazione, perché il mio ridere ricorda un po' quello che si faceva a scuola, no? Dove lo sguardo severo dell'insegnante rendeva la risata clandestina più esplosiva, difficile da controllare. Poi, in questa risata, mi trovo a scaricare tutta la tensione e la paura per la tragedia che sto vivendo. E così rido. E rido ancora. No, il programma di Fiorello io non lo conoscevo, e girando così la radio in quel momento così particolare, emotivamente molto intenso per me, insomma, il trovare qualcosa che ha scatenato una risata ha certamente amplificato la risata, che ha avuto una funzione di scaricare l'altissima tensione emotiva che io vivevo in quel momento. Quindi è stata una risata molto amplificata rispetto a una risata normale. Probabilmente non avrei mai riso ascoltando solamente la radio. Un'infermiera si ferma un attimo, non aspettandosi una risata in quel luogo. Si rivolge ad una collega e la guarda con uno sguardo che è una sorta di interrogazione senza parola, e poi in dialetto romagnolo dice: «E quest se che fa?» Traduco: «E questo cosa sta facendo?» L'altra infermiera, che stava sistemando una federa, senza nemmeno smettere la sua attività, dice: «A ne so, ma le proprio andè, puaret». Traduco: «Non lo so, ma è proprio andato, poveretto». Emettendo quasi una sentenza senza appello su di me. Ebbene, dopo due interventi al cervello per la riduzione di due aneurismi, recupero definitivamente l'uso del braccio e della gamba e vengo dimesso. Ora sono tornato alla vita di sempre. Still he loves you, feel this strong. Avete mai sentito parlare di TED? Da qualche tempo girano sul web questi video in cui una persona in piedi su un palco racconta qualcosa che di solito non conosciamo e che spesso è molto interessante. TED è semplicemente l'acronimo che sta per Technology Entertainment Design. E non è altro che una serie di conferenze che si tengono ogni anno a Monterey, in California. È un formato che funziona così. Ogni discorso deve durare al massimo 18 minuti. E a parlare sono invitati personaggi che hanno di solito inventato, creato o studiato qualcosa che è utile sapere nel campo della scienza, dell'informatica, dello spettacolo, della tecnologia, della musica. Insomma, qualsiasi idea che meriti di essere diffusa. Questa è la filosofia di TED. Dopo aver letto il racconto di Moreno, io sono tornato sul sito di TED e mi sono andato a rivedere uno dei discorsi più illuminanti e più emozionanti che io abbia mai sentito lì, e probabilmente dappertutto. La relatrice, che poi è soprattutto una narratrice, si chiama Jill Ball Taylor. È un medico americano. Per l'esattezza, lei è una neuroanatomista specializzata nell'analisi del cervello umano. Alla dottoressa Ball Taylor è successa una cosa molto simile a quella che è successa a Moreno. E lei lo racconta con la scientificità di un medico, ma con la passione di un'attrice. E per parlare di cosa le è successo, parte spiegando proprio all'inizio com'è e come funziona il cervello umano. E se guardiamo il cervello, si vede benissimo che le due cortecce cerebrali sono nettamente separate. Se avete dimestichezza con i computer, l'emisfero destro funziona come un processore parallelo, quello sinistro come un processore seriale. I due emisferi comunicano tra di loro tramite il corpo calloso, che è composto da 300 milioni di fibre assonali. A parte questo, i due emisferi sono del tutto separati e elaborano le informazioni in modo diverso. Ogni emisfero pensa a cose diverse, si occupa di cose diverse e, oserei dire, ha una personalità diversa. Ecco, però la cosa più bella e più interessante del discorso che lei fa riguarda soprattutto questi due emisferi del nostro cervello. Il racconto è il modo in cui lavorano, ma soprattutto il modo in cui ci mettono in comunicazione oppure ci separano dal resto del mondo. Il nostro emisfero destro è concentrato sul presente, qui e ora. Pensa in immagini e impara attraverso i movimenti del corpo. Le informazioni sono sotto forma di energia, fluiscono simultaneamente attraverso il nostro sistema sensoriale e poi esplodono in questo enorme collage che è la rappresentazione di questo momento, gli odori, i sapori di questo momento, le sensazioni e i suoni. What this present moment smells like and tastes like, what it feels like and what it sounds like. Il nostro emisfero sinistro invece è completamente diverso. L'emisfero sinistro pensa in modo lineare e metodico. L'emisfero sinistro gestisce il passato e il futuro. Il compito dell'emisfero sinistro è quello di prendere l'enorme collage del presente e raccogliere dettagli, dettagli e ancora dettagli sui vari dettagli. Quindi cataloga e organizza tutti questi dati, li associa con cosa abbiamo imparato nel passato e proietta nel futuro tutte le nostre possibilità. E l'emisfero sinistro pensa in una lingua. Ecco, questa è una piccolissima parte di quel video, andate a vedervela, dopo magari mettiamo anche il link su Facebook. Dopo però la dottoressa Ball Taylor arriva con questo suo racconto fino alla mattina del 10 dicembre del 1996, giorno in cui lei stessa viene colpita da un'emorragia cerebrale. La storia è ancora più interessante e più tardi ve ne racconto un altro pezzo. Però, quando ho letto il racconto di Moreno, subito ho pensato a lei e al modo così sofisticato e delicato in cui funziona il nostro cervello. chi è più tecnologico se l'è già scaricato. Alessandro dice: già fatto, iBook Store di Apple è già nell'iPad. Altrimenti qualcuno ci dice: ma perché cavolo non avete fatto un semplice PDF sul sito di Radio 24? Bah. Alan o Alen, provincia di PN. Alen, ci sarà anche il PDF e te lo scarichi. L'unico problema è che il PDF è un PDF, non è un ebook. Cioè c'è proprio una differenza sostanziale. Domani lo rilanciamo meglio al Salone del Libro. Vi ricordo di venire un po' prima allo stand, al padiglione 2, stand J166. Vabbè, poi lo trovate. Ok, vi aspetto domani verso le... Facciamo 3:15. Ci vediamo lì. È venerdì anche. Dove siamo? Ah, siamo qui. Siamo con Moreno. C'è già Moreno al telefono? E allora sentiamolo direttamente. Pronto, Moreno? Pronto, ciao. Ti sei scaricato l'ebook? Scusa, ho sentito male. L'ebook te lo sei scaricato? No, ho imparato adesso che c'è un ebook e lo farò Senti Moreno, innanzitutto grazie mille per la tua storia, che diciamo è molto peculiare, cioè racconta una cosa ben precisa e la racconta bene, e per fortuna che la racconta, nel senso che per fortuna che alla fine sei qua a farlo. Certo, c'è una coscienza che parla, no? dopo un fatto. Quanto tempo fa è successo esattamente? È successo 6-7 anni fa. E adesso stai bene, ci dicevi, dopo due interventi. Quanto tempo però ci hai messo a riprenderti? Dunque, sono stato ricoverato più di 2 settimane. Mm-hmm. L'intervento è stato fatto con embolia, cioè quindi attraverso, è stato embolizzato, si dice così. Mm-hmm. E quindi attraverso la via delle arterie, l'altro invece è proprio nel cervello, quindi con tante di... Uso il termine scalottamento, mi piace fare abbreviazione. Ti ringrazio per usarlo nel proprio termine scientifico. Lo scalottamento, certo, ma chi non è stato scalottato un paio di volte nella sua vita? Una volta nella vita, sì. E insomma, quindi adesso... E niente, dopo sì, il recupero è stato abbastanza veloce perché è chiuso. Tu lavoravi ancora, giusto Moreno, all'epoca? Sì, lavoravo, facevo quello che potevo. Facevi il capotreno, quindi, scusami, il capotreno è proprio quello che passa e ti chiede sia il biglietto sia c'ha tutte le responsabilità di un treno. Esatto, sì. Adesso è l'unica figura, diciamo, che si relaziona con la gente, con i viaggiatori, prende anche dei nomaci, poi fa il controllore, poi fa magari partire il treno, fa la responsabilità del ruolo. Ma sei in pensione però adesso, giusto? Sono in pensione da poco, sì. Da quanto? Ma è un anno. E come va? Benissimo, perché finalmente posso studiare le cose che amo. Mi sono iscritto alla scuola di istituti, all'Istituto Superiore di Religiose. Quindi faccio studi di teologia e poi amo scrivere, amo andare sott'acqua a pescare anche se non prendo pesce. Senti, di dove sei esattamente, Moreno? Di Rimini. Ah, sei di Rimini, quindi sei uomo di mare di fatto. Anche dei jure, come si dice. Senti, invece un'ultima cosa, visto che c'è quell'episodio divertente legato alla radio e legato a Fiorello, una fattispecie, la ascoltavi già o è accaduto lì che hai cominciato ad affezionarti al mezzo? Guarda, io credo di non averla mai ascoltata, non sapevo che a quell'ora lì... No, parlo tarda. Della radio in generale io, Moreno, parlo del, non no, del programma. No, la radio l'ascolto. Ah, ok, l'ascoltavi già. Però non particolarmente con la trasmissione, perché era ora tarda, credo alle 10 di sera. E non mi aspettavo di trovarmi questo. Di trovarla. E lì davvero una risata più che ci seppellirà, ci libererà, direi, Moreno. È stata così. È stato così. Senti, ti ringrazio moltissimo ancora per il tuo racconto. Immagino tu non possa venire a Torino domani o dopo. No. Però fai una cosa. Mi sarebbe piaciuto in realtà. Anche a noi, però fai una cosa, visto che leggiamo comunque gli SMS, visto che il tema di domani è oggi mi è successo che, qualsiasi cosa ti sia successa domani, da quando ti alzi a quando siamo in onda, me la mandi con un SMS. La cosa più domani? Importante della giornata. Sì. D'accordo. Ok. Moreno, d'accordo. Grazie ancora. Grazie a voi. Ciao e buona giornata. Grazie a tutti. Grazie. E va bene col PDF, ma potevate anche pensare a un... vabbè ragazzi, non è che possiamo pensare a tutto. Abbiamo fatto l'ebook, scaricatelo. Adesso la borsa e poi voi siete qui. Voi siete qui. Ecco, una delle sue figlie, Moreno, nella foto che ci ha mandato, che trovate sul sito. Figlio o nipote? No, né figlia. Io credo figlia, perché dice che ha avuto due figli. Vabbè, insomma, è con una ragazzina nella foto che ci ha mandato e sono entrambi bellissimi. Lei ha l'apparecchio sui denti tipico degli under 15. Lui invece è un bel signore con una camicia di jeans e il sorriso di chi sta decisamente bene. E poi soprattutto ha questo nome, Moreno Babboni, che è da prima che ci diciamo sembra il nome di un inviato del tutto il calcio venuto per noi. A te la linea, Babboni, ad Ascoli o a Rimini. nella fattispecie. Allora, qualcuno ci scrive: fantastico, ma che cos'è un ebook? Un ebook è un libro elettronico, è un libro che leggi o sul computer o su un reader elettronico che si acquistano in tutti i negozi di tecnologia. Ascolta 2024 per saperne di più sull'ebook. E poi qualcuno mi scrive: se vengo domani al Salone del Libro mi firmate una copia tu e Bonini? Guarda, te la firma anche Margherita In, che non c'è domani al Salone del Libro. Però lo devi stampare, non mi sembra il caso di stampare, sono 230 pagine mi sembra di aver visto lì. Però se venite al Salone del Libro domani, fate una cosa, scrivetemi adesso al volo, dai, se avete voglia di farlo, 349-238-6666, giovedì o venerdì, se venite giovedì o se venite venerdì o se venite sabato alle 18 in cui ricostruiamo una puntata. Se venite però domani o dopo, venite lì un po' prima, perché non è proprio una puntata, non lo posso dire ad alta voce perché ho paura di spaventare quelli della radio, ma non sarà proprio una puntata normale. Facciamo una specie di esperimento per cui scrivo al momento le cose che andranno in onda tramite voi, con questo gioco del oggi mi è successo che. Vi diamo delle fotocopie, una roba semplice, però dovete arrivare un attimo prima, altrimenti rischiamo di non andare in onda. Dai, 349-238-6666, ci contiamo un po'. Giovedì, se venite giovedì, venerdì, se venite venerdì, o sabato, se venite sabato, in quel caso è più semplice. Venite alle 18 e portate il racconto che di solito ci mandate via email. Ripeto, 349-238-6666. Vi voglio mandare l'ultimo pezzo di quella conferenza di Bol Taylor, che è questa dottoressa. Vi avviso, la parte finale del suo racconto, andate a vederlo, dura 18 minuti, è straordinario, è la parte più emozionante, quella in cui lei si cura, sta meglio e capisce, diciamo, che cosa, quale parte dell'emisfero del suo cervello vuole essere. Vi avviso, è una donna attorno ai 50-60, è un po' Age of Aquarius, è un po' fricchettoni con le gonne a fiorelloni, ma è un pezzo straordinario. And I realized, but I'm still alive. E allora ho capito, sono ancora viva. Sono ancora viva e ho trovato il Nirvana. E se ho trovato il Nirvana e sono ancora viva, chiunque può trovare il Nirvana. E ho immaginato un mondo pieno di splendide, pacifiche, compassionevoli, amorevoli persone che sapevano di poter venire in questo spazio quando volevano e che potevano scegliere di poter accedere al loro emisfero sinistro e trovare questa pace. Poi mi sono resa conto del tremendo dono di questa esperienza, quello che poteva essere un'intuizione pazzesca su come viviamo la nostra vita, e questo mi ha spinto a guarire. What a stroke of insight this could be to how we live our lives, and it motivated me to recover. Right here, right now, I can step into the consciousness. Qui e ora io posso entrare nella consapevolezza del mio emisfero destro. Dove siamo ora? Sono la forza vitale dell'universo. Sono la forza vitale degli splendidi 50 trilioni di geni molecolari che mi danno forma, in sintonia con tutto quello che esiste. Oppure posso decidere di entrare nella consapevolezza del mio emisfero sinistro, dove divento un individuo unico, un solido, separato dal flusso, separato da voi. Io sono la dottoressa Jill Bol Taylor, intellettuale e neuroanatomista. Questi sono i noi che ci sono dentro di me. Quale scegliereste? Quale scegliete? E quando? Sono convinta che più tempo dedicheremo al profondo circuito di pace interiore del nostro emisfero destro, e più pace proietteremo nel mondo, e più sereno sarà il nostro pianeta. Secondo me, questo è un concetto che vale la pena trasmettere. Domani, vengo venerdì, vengo domani, vengo venerdì. Mi piacciono questi messaggi proprio a caso, perché non sai chi sono, non sai perché vengono. Il migliore è caccia, ma se vengo mi dai il gettone di presenza? Come no? È previsto proprio, no? È un gettone di presenza. La forma e la moneta la scopriremo poi. Vi aspetto domani al Salone del Libro di Torino, in diretta per chi ha voglia di essere lì, o altrimenti alla solita ora, alle 16, puntuali, domani e dopo. Visto che la professoressa Taylor, di cui vi metteremo pubblicheremo a breve il video sul profilo del programma. Ha parlato di Nirvana, abbiamo chiesto qual è il vostro Nirvana e le risposte sono state abbastanza multicolori. Claudia, ascoltare il programma. Gabriele, suonare. Angelo, pedalare e sentire la fatica è il mio Nirvana. Alessandra, il divano. Luigi, le pesche sciroppate. Francesca, 8 ore di sonno senza interruzioni. Ention, andare a caccia di una sola fotografia, la più intensa. Luca, fare l'amore. Sandra, fare l'amore. Barbara, l'isola d'Elba. Simona, correre veloce. Lucia, l'acqua. 349 238 6666. Ancora Beppo, raggiunto una volta in gita in Germania, siamo stati in un bosco a Friburgo. Il sottoscritto si è allontanato, ha seguito un sentiero. Dopo un paio di minuti ho trovato una grande roccia, mi sono seduto e sono entrato in simbiosi con la natura. Esperienza bellissima. Dopo 30 minuti sono venuti a cercarmi. Se non fossero venuti a cercarmi sarei restato lì ore e ore. Che sostanze avevi preso, Beppo, ragazzi, per star lì ore e ore su un sasso? Susanna, su qualche cucuzzolo delle Dolomiti è il mio Nirvana. Claudio, quando prendi il ritmo fra il passo e il respiro, lo zaino non pesa più e ti sembra di camminare senza fatica su di uno strato d'aria. La storia di oggi era la storia di Moreno, parlava del nostro cervello. Da domani siamo al Salone del Libro, padiglione 2, stand J166. Venite verso le 3 del pomeriggio e preparatevi. L'esperimento di domani sarà particolare e il tema è: oggi mi è successo che...